questo giovedì 5 luglio non c'è un'apertura che accomuna tutti i quotidiani, ci sono varie scelte, i tagli, il Sole 24 Ore, gli ospedali e i tribunali sotto esame, questo è il titolo d'apertura anche per il Corriere della Sera, tagli, la lista degli ospedali, ma ci sono anche, diciamo, le cosiddette false aperture, doppie aperture, anche tanti titoli sul bosone di Higgs, questa scoperta scientifica molto importante, il Corriere lo mette in prima pagina, la particella che può svelare i segreti dell'universo. Repubblica è un colloquio di Eugenio Scalfari con Napolitano, perché l'Italia deve farcela, questo è il titolo di apertura. La Stampa, nomine Rai, Schifani, Fini ai ferri corti, la vicenda Rai, anche sul Giornale, Fini rifà il furbo e l'Unità, Rai, colpo di mano di Schifani. Mentre Libero, Monti, taglia qui se hai il coraggio, rimborsi, distacchi, sindacati così drenano centinaia di milioni l'anno. Il Fatto Quotidiano invece sulla vicenda Tremonti, interrogato al burattinaio, dice «Vuoi i nastri del Quirinale?» Questo è il titolo di prima pagina. Per il Messaggero, patto tra Monti e Merkel, mentre il Manifesto mette proprio la vicenda della scoperta scientifica annunciata al CERN di Ginevra, materialismo storico, la scoperta per il bosone di Higgs. Questo è il titolo di apertura. Ma mi ha molto inquietato quello che il Corriere della Sera mette in prima pagina, firma Aldo Cazzullo, l'ho trovata solo sul Corriere della Sera, una vicenda che, se ricordate, è di qualche tempo fa, riguarda alcuni giocatori del Bologna che furono pizzicati a usare il pass di una dipendente del Bologna, della società invalida, per passare nelle zone o parcheggiare, andare nel centro, insomma utilizzare in maniera impropria i pass per invalidi. Ebbene, sono stati tutti assolti questi calciatori, ma Aldo Cazzullo mette in prima pagina del Corriere, in maniera secondo me giusta, la motivazione per la quale la Procura di Bologna ha deciso di non perseguire penalmente i giocatori del Bologna. Udite, udite, perché è veramente un qualcosa di incredibile. Calciatori immaturi e il giudice li assolve. Questo è il titolo. In effetti, a vederli ciondolare con le cuffie alle orecchie, la PlayStation sotto il braccio, possono dare l'idea di ragazzoni viziati, avulsi dalla realtà, incapaci di concentrarsi su qualcosa che non sia il calcio. Però, insomma, proprio incapaci di intendere e volere, non sono. Così invece il procuratore aggiunto Walter Giovannini di Bologna vede i calciatori, anzi i moderni gladiatori, così li ha definiti nel proscioglimento. E per questo chiede il proscioglimento dei tesserati della squadra, si suppone la sua, aggiunge maliziosamente Cazzullo, coinvolto in una brutta storia di permessi per disabili per entrare in macchina nel centro storico. Ma sentite la premessa della richiesta di archiviazione, talmente spassosa che va letta per intero. Virgolette. Nel nostro paese i moderni gladiatori, e cioè i calciatori, vivono in una sorta di bolla immateriale che, salvo rare eccezioni, li mantiene avulsi dal quotidiano al limite dell'incapacità di badare agli affari correnti di natura burocratica, che affaticano invece ogni persona che non pratica ad alti livelli l'arte pedatoria. Cioè, questo è il virgolettato del giudice, che per questi motivi dice sono dei gladiatori avulsi dalla realtà, visto che praticano ad alti livelli l'arte pedatoria, mica si occupano di cose pratiche di tutti i giorni. I moderni gladiatori, il bomber di Vaio, Ada Hilton, Viviano, Portanova, questi sono i calciatori, erano accusati, scrive Cazzullo, di aver approfittato di permessi riservati a disabili o residenti in centro, in particolare le targhe dell'auto di alcuni atleti e dei loro cari erano collegate al permesso di una donna disabile che da anni lavora per i calciatori del Bologna. Una storia ovviamente da approfondire. Raccontata così sembrerebbe che i praticanti l'arte pedatoria fossero tutt'altro che avulsi dalla realtà, anzi partecipassero di quella natura furbastra fin troppo diffusa nel nostro paese. Comunque questa decisione non giova neppure ai pedatori, che sono capaci anche di qualità morali, come si è visto all'europeo, ma talora tendono a pensare che tutto sia dovuto e la colpa non è loro, è nostra, è di chi li circonda, li strapaga, li lusinga, li sfrutta, li circuisce, li suborna, li vizia. Prosciogliere chi fa il furbo non significa fare il suo bene. Magari lo scandalo delle scommesse non finirà allo stesso modo, ma vicende come queste preparano gli scandali prossimi venturi. Così Aldo Cazzullo, davvero questa vicenda è incredibile, soprattutto nella motivazione, che non sto a rileggervi, ma i praticanti l'arte pedatoria ad alti livelli sono avulsi dalla realtà. I gladiatori, così scrive il giudice di Bologna. Vabbè, passiamo alla Stampa, dove mi ha incuriosito questa vicenda che trovate a pagina 17, riguarda il comune di Salerno, dove è partita la gogna mediatica sul web per gli irriducibili del sacchetto selvaggio. La vicenda riguarda la spazzatura e il comune di Salerno, scrive Antonio Salvati, ha deciso di pubblicare nomi, cognomi, indirizzo dei cittadini di Salerno che non rispettano i canoni della raccolta della spazzatura. I primi 22 sono già online, nome, cognome, professione, luogo della contestazione, tutto sul sito del comune di Salerno, trasformato in un vero e proprio muro della vergogna per chi viene sorpreso a non rispettare i canoni della raccolta differenziata dei rifiuti. L'elenco per ora riguarda le contestazioni del mese di giugno, sono 22 appunto, ma i controlli saranno potenziati. L'iniziativa voluta dal sindaco Vincenzo De Luca è stata ribattezzata Cafoni Zero e viene definita dal sindaco un'iniziativa di rispetto verso il 90% dei cittadini che in maniera disciplinata fanno il loro dovere, perché Salerno sta diventando una città modello. Siamo l'unico capoluogo della Campania ad aver completato il ciclo dei rifiuti con la costruzione di un impianto di compostaggio da 30.000 tonnellate l'anno. Insomma, al di là di questo spot che De Luca dice sull'efficienza di Salerno, la notizia sta proprio in questa gogna mediatica. Insomma, 22 persone messe con nome e cognome, tolleranza zero che riguarderà, fa sapere il sindaco, anche i titolari dei locali pubblici che non ripuliscono le aree antistanti di bar, pub e ristoranti. I pattugliamenti notturni prenderanno il via da mezzanotte fino alle 6 del mattino e la blacklist è destinata ad allungarsi, così come le proteste di chi vedrà il proprio nome in bella mostra sul sito del comune di Salerno. Così succede, racconta La Stampa, pagina 17. Allora, i tagli ancora previsti dal governo. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, alle 17 credo, e ancora sui giornali dunque campeggiano tutti i temi legati ai tagli, il tema dei tribunali, ma soprattutto quello degli ospedali. Ne parleremo anche noi alle 8.30. I mini ospedali, sui mini ospedali è scontro nel governo, così titola pagina 13, il Sole 24 Ore, perché c'è un ministro, vale a dire Balduzzi, il ministro della Sanità, che viene dato in trincea su questo tema. Intanto c'è l'elenco di tutti gli ospedali che, scrive il Sole 24 Ore, eccolo qui, la soglia potrebbe scendere a 80 posti letto. Un taglio dunque ieri annunciato di potrebbe essere 216 ospedali a rischio chiusura, ora potrebbero essere 145 gli ospedali a rischio chiusura. Comunque tutto l'elenco lo trovate regione per regione a pagina 13 appunto del Sole 24 Ore. C'è un ministro Balduzzi, come detto, in trincea, fa un'intervista a Repubblica, intervistato da Giovanna Casadio, a pagina 11, dice: è stato raggiunto il limite, ora basta sacrifici, in Italia la sanità non si può andare oltre, è stato raggiunto il limite, ribadisce Balduzzi. Ho detto che non è pensabile che sia Roma a decidere quali piccoli ospedali vadano chiusi. Al che arriva la domanda di Giovanna Casadio: ma è vero che è finita ad insulti la riunione con le regioni? Addirittura, insomma, non ci sono stati insulti, risponde il ministro. Abbiamo constatato che non c'è accordo, ma lo abbiamo fatto con garbo. Certo, è necessaria una riorganizzazione della rete ospedaliera, non c'è dubbio. Le regioni sono invitate a farlo, in particolare quelle che sono in piano di rientro, Piemonte, Puglia, Sicilia, e quelle in commissariamento, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria. Ma non sarebbe coerente con il riparto delle competenze tra Stato e regioni se i tagli fossero decisi da Roma. Ne andrebbe di mezzo la serietà di una politica sanitaria, una cosa così non può essere accettata, lo dirò in Consiglio dei Ministri. Insomma, un Renato Balduzzi che è pronto a battagliare all'interno del suo governo, non è che Roma può decidere dall'alto si chiuda questo, si chiuda questo, si chiuda questo, però le regioni sono invitate a farlo. E non vorremmo che in questo gioco di responsabilità, per carità, un ospedale è importante, ma è l'ospedale e gli ospedali sono importanti se servono, come tutto. Se invece sono un qualcosa che appesantisce la burocrazia, appesantisce i costi, allora più che un servizio rischiano di diventare un disservizio, o no? Ma ne parleremo alle 8.30, come detto. Come oggi ho letto la barzelletta più bella del mondo, questo titolo che il Sole 24 Ore mi ha regalato, a pagina 9, io quando l'ho letto, appena arrivato qui un po' stanco, come al solito, alle 6.10 del mattino, apre il Sole 24 Ore e legge a pagina 9, slitta la riduzione delle province. Oh, io ho detto, oh, che bello questo titolo, lo ripeto, slitta la riduzione delle province. Ora capite che quando dico che la barzelletta che ci trasciniamo da anni, da decenni, beh, insomma, poi quando si leggono titoli del genere non si può che certificare questa realtà lampante. Eugenio Bruno e Marco Mobili raccontano quelli che sono i dettagli che poi dovrebbero essere concretizzati appunto oggi pomeriggio, salvo le ultime riunioni, gli ultimi ripensamenti, le ultime revisioni della spending review. La fase 2 della spending review parte, ma senza il taglio delle province, la sforbiciata del 20% agli enti pubblici e il riordino dei piccoli comuni. Questi tre interventi, salvo nuovi ripensamenti appunto dell'ultima ora, rappresenteranno la terza tappa del programma di riordino della spesa pubblica messa a punto dall'esecutivo. La terza tappa, ci ripenseremo, ne riparleremo più avanti. Per ora la riduzione delle province annunciata 5.000 volte già non ci sarà, così dice il Sole 24 Ore. Anche un altro tema è quello sulla riduzione dei tribunali, sui quali si discuterà fino all'ultimo. Cancellati i tribunali più piccoli, questo è sempre un titolo del Sole a pagina 12, si discute di quanti uffici possano, debbano essere tagliati, accorpati. Ci sono già anche qui gli avvocati sul piede di guerra, i magistrati sul piede di guerra, molti sindaci pronti a difendere l'imprescindibilità dell'esistenza di una sede di tribunale nel loro comune. Staremo a vedere alla fine di questa settimana si tireranno un po' le somme. Voglio sottolineare quella che invece è una lettera pubblicata dal Corriere della Sera a pagina 4 e firmata da Antonio Bernava, Ministero dell'Economia, quindi un dipendente, uno statale, che scrive questa accorata lettera: è troppo accanimento, non lo meritiamo. Caro direttore, sono uno statale che ha sempre fatto il suo dovere in più di 30 anni di servizio. Mi creda, ho dato all'amministrazione pubblica più di quanto lo Stato non abbia dato a me. Ora leggo che potrei far parte nei prossimi mesi di quei ministeriali collocati obbligatoriamente in pensione o in mobilità per 2 anni se non accettano il trasferimento in un'altra città. È davvero triste essere considerati dal governo e dall'opinione pubblica solo un esubero, un ramo secco da tagliare. Non si fa più carriera all'interno degli uffici, non si fanno più concorsi, ci hanno tolto tutto, perfino la dignità di essere chiamati funzionari dello Stato. Siamo dei numeri, sigle astratte, F1, F2, F3. Sembra di fare battaglie navali. Da qualche anno non si rinnovano nemmeno i contratti. Quali altri sacrifici dobbiamo fare? A me sembra solo una specie di rivincita, un fatto simbolico e propagandistico da sventolare come un vessillo in Europa. Ecco, dopo le pensioni, l'IMU, l'articolo 18, abbiamo tagliato pure gli statali. Non è una bella cosa quando uno Stato si compiace di aver mandato via i propri servitori assunti con regolare concorso pubblico. Fanno bene i sindacati a protestare. Insomma, questo è il senso della lettera firmata Antonio Bernava, uno statale, un dipendente del Ministero dell'Economia, scelto dal Corriere per protestare a nome di tutti gli statali, a nome di molti statali che rischiano questo tipo di tagli. Certo, uno paragona questa lettera a quello che si legge a pagina 9, firma Sergio Rizzo sulla Sicilia, quindi dipendenti pubblici, già il titolo è tutto un programma, Sicilia più dipendenti del governo inglese. La presidenza della regione ne conta 1385, Downing Street si ferma a 1337. Esiste in Italia un ufficio pubblico dove c'è un dirigente ogni 6 impiegati, si trova a Palazzo dei Normanni, Palermo, presidenza della regione siciliana, ma il governatore Lombardo sappia che non è l'unico in Europa a guidare un esercito pieno zeppo di generali. Il premier britannico James Cameron è nelle sue stesse condizioni, anche a Downing Street ogni dirigente ha in media 6 sottoposti. Inizia così l'articolo, poi una lunga disamina di quello che è la regione Sicilia. 1385 i dipendenti della presidenza della regione siciliana. Downing Street 1337. I dirigenti nella regione siciliana 192, a Downing Street 198. E vabbè, questo è Libero oggi in prima pagina, titola in maniera molto dura: caro Monti, sei coraggio, taglia qui, se la prende proprio con i sindacati che hanno protestato e stanno protestando molto. Tra rimborsi, distacchi, i sindacati drenano centinaia di milioni l'anno alle casse dello Stato. Riprende il libro di Stefano Livadiotti intitolato L'altra casta contro i sindacati. Maurizio Belpietro scrive, il direttore, nel suo editoriale a pagina 3: se davvero si volesse incidere sulla spesa pubblica, basterebbe che il Premier semplificasse i documenti che il contribuente deve presentare al fisco, oppure dovrebbe azzerare in un amen i fondi destinati alla triplice, i sindacati. Non molto più complicata sarebbe l'eliminazione dei sindacalisti retribuiti dallo Stato. Basterebbe applicare anche nei ministeri il contratto privato e 4.569 persone pagate dalla pubblica amministrazione per lavorare presso le sedi di CGIL, CISL e UIL sarebbero interamente a carico delle confederazioni. Certo, per fare tutto ciò ci vuole un discreto fegato e anche la pazienza di sopportare scioperi a non finire. Questa è la proposta molto molto dura di Libero, mentre il giornale a pagina 3 se la prende con il sovrintendente alla Scala di Milano, Stéphane Lissner, che per la verità, devo dire, anche noi come redazione avevamo chiamato, però per il momento ha deciso di non intervenire, almeno un paio di giorni fa, chissà se dopo questo articolo deciderà di farlo. Stefano Zurlo a pagina 3: il sovrintendente della Scala costa 7 milioni agli italiani. Questo è il titolo che trovate a pagina 3. Lissner ai vertici del teatro milanese dal 2005, un compenso faraonico cresciuto ancora con il rinnovo del contratto. Scrive Zurlo: la spending review potrebbe partire da qui a spulciare le cifre. Guadagna 1.050.000 euro, un tesoretto che mal si coniuga con la politica tutta forbici predicata dal governo dei tecnici. Per carità, non si può giudicare un'eccellenza italiana come la Scala con la logica contabile, ma questo è snocciolato da Zurlo come il presunto sontuoso contratto di Lissner, il contratto che prevede anche una BMW autista dal costo di 79.000 euro, ma 71.000 euro per la verità. E poi a sommare tutti i pezzi del sistema Lissner si rischia di perdere il conto. Ci sono anche le missioni, e qui scatta la diaria, che non è quella di un dipendente dello Stato, ma fa lievitare i compensi del sovrintendente. E poi, per non farsi mancare niente, Lissner ha anche una carta di credito che è, per quel che si sa, a strisciata libera. Quindi il sovrintendente può pure scordarsi il portafoglio a casa, e quando va in giro per contratto ha diritto a riposare in hotel a 5 stelle, una vita super accessoriata. È incredibile ma vero, nel 2012 al giro di boa gli è stato pure riconosciuto un premio da spalmare sui prossimi 5 anni di altri 300.000 euro. Insomma, 7 milioni agli italiani, questo è il costo quantificato dal giornale di Stéphane Lissner, sovrintendente alla Scala. La politica invece di cosa parla? Rai, e lo fa malissimo, e poi altre cose dopo il traffico. Allora, la politica, intanto detto con tutto rispetto, oggi troverete due pagine, nonché il titolo di prima pagina di Repubblica, che è questo: perché l'Italia deve farcela, è un colloquio del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari con Giorgio Napolitano, capo dello Stato, tanti elementi di cui discutere. Ebbene, in due pagine si discute di Einaudi, Gramsci, Sraffa, la DC, la storia dell'Italia, la Repubblica, pochissime cose attuali. Una è appunto l'Italia deve farcela all'Europa. Sentite l'inizio anche dell'articolo: è una calda domenica di estate, l'automobile sta percorrendo il viale di Castel Porziano che porta alla residenza del Presidente della Repubblica. Ai fianchi della strada si stagliano gli alti tronchi dei pini marittimi intervallati da querce. Un cinghialotto ci passa davanti e scompare nel folto del bosco, sulle strisce di prato, ai lati del viale saltella qualche merlo e un upupa, ilare uccello, cammina impettita con la piccola cresta sul capo. Sarà pure ilare, io invece sono preoccupato. Con il presidente abbiamo concordato di scambiarci idee e opinioni per quel che sta accadendo in Italia e in Europa. Io metterò in carta i suoi pensieri e le sue valutazioni, ma non sarà un compito facile coi tempi che corrono, la crisi che continua ad infierire ormai da 4 anni. L'auto arriva al castello, girando a destra si va verso il mare, a sinistra una breve salita conduce alla residenza. Ora siamo arrivati. Il napoletano mi viene incontro, mi conduce in una piccola stanza, in un tavolo la televisione, accanto alla finestra che guarda sul prato un tavolinetto con 2 sedie. Chiedo il permesso di togliermi la giacca, lui mi aiuta a sfilarmela, indossa una maglietta azzurra, io resto in maniche di camicia, ci sediamo e la nostra conversazione comincia. Ed appunto tutto un colloquio più sul passato che sull'attuale presente. Comunque lo trovate a pagina 2 e 3 di Repubblica sull'attualità. 2 accenni sul caso Mancino, la correttezza dei miei comportamenti ha trovato il più largo riconoscimento, ho reso pubblica la lettera al procuratore generale. In ogni caso, purtroppo oggi il tempo è pochissimo, io non so, mi sono attardato, ci sarebbe tanto da leggere. Tutta la vicenda Rai, non ci sono le nomine, non si riescono a fare le nomine, c'è la vicenda anche di un deputato dissidente, Amato, intervistato un po' da tutti oggi su tutti i giornali. Praticamente il ribelle non vota quello che il partito vuole che lui voti come consigliere, quindi l'hanno rimosso dalla commissione di vigilanza, polemica tra Schifani e Fini, ma il risultato è che è una politica incredibilmente, non riesce a fare le nomine del CDA della RAI, oggi Monti pare sia pronto al commissariamento. Comunque ne parleremo con Milena Gabanelli, nel senso parleremo di che effetto fa fare la giornalista in Rai e vedere questo spettacolo da parte della politica. Tra l'altro la notizia televisiva del giorno è questa: Santoro ha firmato con la 7, ma come, l'anno scorso tutta la polemica che poi l'ha portato a fare un programma su una piattaforma multimediale, non firmò con la 7 dicendo non mi danno la libertà. Adesso l'annuncio di Enrico Mentana, direttore del TG della 7, ieri, che ha bruciato un po' anche la conferenza stampa di oggi della 7 che doveva annunciare questa firma, Michele Santoro ha firmato per la 7. Secondo il Fatto Quotidiano gli confermano totale autonomia e libertà su quello che potrà fare. Di politica torna anche in scena l'ex ministro Tremonti per questa intercettazione che il Fatto Quotidiano mette in prima pagina e che è valsa Tremonti una richiesta per un interrogatorio da parte della Procura di Napoli. L'intercettazione è questa: Monti al telefono con quello che è stato definito il burattinaio Moncada di Finmeccanica dice, secondo Marco Lillo a pagina 2 del Fatto: allora, vuoi le intercettazioni di Nicola Mancino e Loris D'Ambrosio, cioè l'ex ministro dell'interno e il consigliere giuridico del Quirinale? Quando hanno ascoltato questo colloquio, i magistrati sono balzati sulla sedia. Ora, dice Tremonti, scherzavamo al telefono con Moncada, ma certo i magistrati vogliono vederci meglio. C'è poi tutto un'ampia serie di articoli su quello che è appunto il bosone di Higgs, questa scoperta importante annunciata dal CERN, è una scoperta scientifica, quindi anche articoli magari complicati da leggere. Io ve ne segnalo uno in prima pagina del Secolo XIX che titola proprio in apertura così: così è nato l'universo. Giuliano Galletta racconta la storia del bosone di Higgs, una proprietà del vuoto, ovvero è dappertutto nell'universo, ci circonda come l'acqua i pesci. Nessuno però fino ad oggi era mai riuscito a vederlo. La sua esistenza era stata solo ipotizzata nel 64 dal fisico Peter Higgs, per l'appunto, oggi 83enne, che lo teorizzò con un'equazione. Il CERN di Ginevra dice: finalmente è stata catturata questa particella che tra l'altro impropriamente è stata definita da sempre la particella di Dio. In realtà qui c'è anche un bel racconto, per esempio, di Giulio Giorello sul Corriere della Sera, pagina 14, come nacque questa definizione della particella di Dio. In realtà tutto si deve al Nobel Leon Lederman, che scrisse un libro e definì questa particella The Goddamn Particle, cioè la particella dannata, perché non si riesce a trovare. Ma l'editore cambiò più che goddamn, mi piacerebbe scrivere the god particle. E da lì nacque la particella di Dio, che in realtà doveva essere la particella dannata in origine. Da allora è sempre stata definita invece la particella di Dio. Trovate l'articolo sul Corriere della Sera e ci fermiamo qui.